Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Roberto Catelli e la CFT, la tecnologia e le macchine per la lavorazione di prodotti alimentari, di Adriano Palazzolo. La storia che vi raccontiamo oggi riguarda un'azienda che opera nel mondo della tecnologia alimentare, partendo dalla trasformazione di tutti i prodotti ortofrutticoli in semi lavorati, che poi vanno all'industria, ma che si occupa anche della seconda trasformazione, per la realizzazione di prodotti finiti che arrivano direttamente sugli scaffali della grande distribuzione. Si chiama CFT, un nome che le è stato dato solo 15 anni fa, ma viene fondata nel 1945, in un periodo in cui nell'area di Parma fioriscono aziende che lavorano pomodoro, formaggio, prosciutto, e nasce l'esigenza di imprese che forniscano i macchinari necessari per la lavorazione di questi prodotti. A raccontarci come tutto ha avuto inizio è Roberto Catelli, presidente del gruppo CFT. Nel 1945, subito dopo la guerra, fondata da mio padre, Camillo Catelli, nasce la Rossi e Catelli. Lui prima della guerra aveva lavorato da Luciani, azienda storica che nasce nei primi del Novecento, che faceva appunto caldaie per il parmigiano reggiano, lavorava in questo comparto già nel 1920, nel 25, per cui lui lavorando lì ha imparato sicuramente a conoscere questo mondo e ha avuto come intuizione che mettere su un'azienda per lavorare in questo comparto fosse sicuramente importante e di successo. Durante la guerra lui ha fatto il militare, era militare, ha fatto 3 o 4 anni di attività e quindi poi fortunatamente non è successo niente, e appena finita la guerra, l'anno stesso della fine della guerra, insieme a 3-4 amici che lui conosceva già, anche loro diciamo che lavoravano in questo mondo, hanno messo su immediatamente questa attività. Come nelle storie delle grandi multinazionali americane dell'informatica, anche l'azienda di Camillo Catelli nasce in un garage, in un borgo di Parma Vecchia. Ma ci si accorge subito che il locale non è adatto alle esigenze lavorative e ci si sposta in quella che poi diventa la sede storica per gli anni a venire. A fare la fortuna dell'azienda saranno le macchine per la lavorazione del pomodoro. Ma all'inizio è un altro prodotto che permette una crescita esponenziale, che fa aumentare il numero degli impiegati da 10 a 100 in un solo anno. Il lavoro c'era, avevano preso una grandissima commessa per l'Eridania, per fare il famoso zuccherificio di San Quirico, e per cui c'era bisogno di manodopera, e quindi immediatamente si è arrivati a dei numeri importanti. All'inizio appunto c'era questa esigenza di far ripartire gli zuccherifici, e quindi hanno fornito le macchine per fare l'estrazione dello zucchero dalle barbabietole, ma parallelamente hanno subito iniziato questa attività sul pomodoro che conoscevano già molto bene, e quindi hanno incominciato a fornire le prime macchine per l'industria del pomodoro. Siamo nel periodo a cavallo tra gli anni 50 e 60 e l'Italia è un paese leader nella realizzazione ed esportazione di tecnologia alimentare. Il successo della Catelli varca i confini nazionali e sono le stesse multinazionali che arrivano fino a Parma per chiedere nuove macchine. E gli anni 50, diciamo dal 55 al 60, sono stati anni determinanti, perché lì si è creata anche una collaborazione con alcune multinazionali che a quell'epoca avevano assolutamente fame di questi prodotti, che erano importantissimi come base di partenza per tutti i prodotti finiti, e quindi si è sviluppato questa partnership con aziende importantissime quali per esempio Heinz di Londra, e insieme a loro abbiamo fatto quelle macchine che erano indispensabili per raggiungere quella qualità che loro chiedevano, che era necessaria per i loro prodotti. Quindi 55-57 si sono fatti i primi brevetti e immediatamente negli anni successivi è iniziata la produzione di queste macchine, di questi evaporatori principalmente, che sono andati in tutto il mondo, principalmente in California, perché non dimentichiamo che tra il 55 e il 65 sono stati esportati quasi 400 impianti in California. Gli anni 60 e 70 portano ulteriore innovazione tecnologica e l'azienda cavalca quest'onda continuando a crescere. Arriva il latte UHT e uno dei più famosi produttori di latte del territorio di Parma ha bisogno di macchinari per la sterilizzazione. In Italia e all'estero, in meno di 10 anni, Catelli consegna oltre 1000 impianti. In azienda lavorano più di 350 persone. Negli anni 70 in azienda arriva Roberto Catelli, voce narrante di questa storia. Intanto l'azienda continua a crescere e negli anni 90 inizia il progetto di internazionalizzazione. Abbiamo incominciato ad aprire delle sedi importanti all'estero, negli Stati Uniti, che è sicuramente uno dei nostri principali mercati. Abbiamo aperto la sede in Cina, perché alla fine degli anni 90 c'è stato il boom della Cina, per cui anche là è stato un grosso mercato per noi per tantissimi anni. Poi abbiamo aperto delle sedi in Europa, in Francia, in Spagna, che erano mercati molto importanti anche questi. A parte la Cina, che, nella quale avevamo proprio una sede produttiva locale, e più recentemente, 15 anni fa, abbiamo aperto una sede produttiva in Ucraina, le altre sono tutte sedi commerciali e di post vendita, dove viene fatto il servizio assistenza tecnica, ricambi. Quindi sede produttivi sono in realtà tre: Parma, Cina e Ucraina. Gli anni 2000 invece sono il periodo delle acquisizioni che portano al cambiamento del nome dell'azienda, da Rossi e Catelli a CFT SPA, un gruppo che include una decina di brand, corrispondenti ad altrettanti prodotti con peculiarità precise, per ampliare la gamma di macchine a disposizione per il comparto alimentare. Nella storia dell'azienda però non sono mancati momenti difficili, come l'arrivo della crisi economica. L'anno più difficile è stato il 2012 per noi, quindi non tantissimi anni fa, dove tutto quello che credevi che fosse infinito alla fine si è rivelato finito, con dei grossi limiti. Si sono chiusi dei mercati, si sono aperti altri mercati, il percorso di crescita, che sembra che non finisse mai, a un certo punto si era fermato, per cui ti trovi di fronte a fare delle scelte. Il business non si ferma lo stesso, anche se non si ferma, per cui devi reinventare il modo di pensare il business e percorrerlo in un modo completamente diverso. Abbiamo reagito sicuramente cercando di essere più flessibili, più rapidi. Abbiamo spostato molte lavorazioni all'esterno e non più all'interno. Abbiamo fortemente presenziato l'estero, quindi abbiamo aperto, nel giro di 3 o 4 anni abbiamo aperto 10 o 15 filiali, quindi vicino ai clienti, rapidi, innovativi, perché stiamo continuamente creando prodotti innovativi, frutto della ricerca che continuiamo a fare tutt'oggi, e questo sicuramente ci ha premiato. Il gruppo CFT esporta i propri prodotti in 52 paesi e l'estero pesa per il 90% sul fatturato. Fatturato che nel 2015 è stato di 173 milioni di euro. I progetti per il futuro dell'azienda, oltre a continuare nel programma di acquisizioni, partono da un presupposto: che il piccolo e bello non va più bene in un mondo globalizzato, come spiega il presidente Roberto Catelli, voce narrante di questa storia. Sicuramente i prossimi 2 anni saranno anni molto buoni, anche se i problemi politici comunque continuano a essere una palla al piede dell'industria. Riusciamo a scavallare questi problemi politici e quindi siamo comunque presenti nonostante tutte le difficoltà economiche che ci sono e si presentano in continuazione in tutti i paesi. Dobbiamo continuare a essere presenti con tutti i prodotti, stiamo cercando di fare sicuramente aggregazioni importanti, e questo sarà sicuramente l'idea vincente, perché ormai il piccolo e bello non esiste più. Noi dobbiamo pensare che il grande e organizzato è sicuramente la strada per avere successo per il futuro. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.